Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi incontra un personaggio, Giulio Verne, grande scrittore, una sorta di Michael Crichton ante litteram. Entrambi si confrontano con la scienza, la fantascienza, la fantasia. Verne è sicuramente uno scrittore molto corposo, che ci ha dato libri come Viaggio al centro della Terra o Dalla Terra alla Luna, Se volete l'Isola misteriose, per non dire dei 20.000 leghe sotto i mari o Il giro del mondo in 80 giorni, tanto per dire i più famosi, o Michele Strogoff, ancora per andare nell'avventura che si interseca con fantastici scenari meravigliosi che hanno fatto sognare generazioni e generazioni di ragazzi. Incontreremo Giulio Verne con un narratore d'eccezione, Gianni Rodari, un ammiratore di Verne, che in qualche modo ci introdurrà al viaggio al centro della Terra. Oggi si discute molto se Pandoro o Panettone, spaghetti o maccheroni. Una volta si discuteva anche se Salgari o Giulio Verne. Sandokan, Sandokan. Tu eri un verniano o un salgariano? Ero un verniano. Chissà perché mi devo vergognare un po' a dirlo. E questo come mai? Salgari era un autore diseducativo. Ma questo lo dicevano, chissà se di questo avevo sentore, allora... per farmi lodare preferivo Verne, ci sono anche questi meccanismi, però penso proprio che mi piacesse di più. Perché Verne era considerato un autore positivo in realtà, sì, perché era scientifico. Però non è quello che a me piaceva, forse, non lo so, rileggendolo adesso direi che la poesia di Verne che c'era, che era diversa, che in Salgari non c'era. C'è un grande dinamismo, ma non trovo che ci sia qualche momento di poesia. In Verne sì, immagino la fantasia arriva anche a costruzioni poetiche. Verne viveva nel secolo della scienza trionfante, del positivismo, dello scientismo, però è diventato il poeta di queste cose, non il divulgatore. Forse è questo che bisogna riconoscere a Verne. Ecco, tu che libro, per esempio, ti ricordi? Qual è il tuo libro di Verne? Penso che il mio libro di Verne sia Il viaggio al centro della Terra. Ecco, vuoi raccontarci brevemente la trama? Raccontare la trama, non so se può dare un'idea del libro, ma c'è un professore che è tedesco, i professori devono essere tedeschi. Sempre tedeschi. Un certo documento che un certo islandese sarebbe arrivato una volta al centro della Terra, che c'è un passaggio in Islanda da riconoscere con questi segnali, lì ci sono dei segnali molto misteriosi. Insomma, lui va a Copenaghen, si discepolo, è uno che fa la corte alla nipote del professore, allora vuol farsi bello agli occhi del professore, vanno in Islanda, trovano questo punto, versato ghiacciai, montagne, lave e così via, scendono. 21° giorno di discesa, siamo a una profondità approssimativa di 120 chilometri, continuano le formazioni calcaree, vediamo cosa dice la bussola. Una dirige su 220 gradi sud-sud-ovest, l'altra su 160 gradi sud-sud-est. Strano. Avrei giurato che dovevamo andare in quella direzione. È sicuro che la bussola funzioni? Le avventure della discesa sono molto belle. Poi c'è un islandese che scende con loro, un islandese molto leopardiano, direi, come personaggio, perché uno che non parla, uno stranissimo dalla psicologia. Chissà cosa vedeva Verne in un islandese, o io vedevo in un islandese. Allora hanno molte avventure in questa discesa, che è una specie di viaggio in un intestino perennemente ingorgato da cose, da presenze paurose. E poi arrivano in questo mare straordinario che c'è nel cuore della Terra. Questo è un mare. È un oceano con onde correnti. L'oceano del mondo sotterraneo. Qualche cataclisma in ere preistoriche squarciò il fondo di un oceano e le acque si rovesciarono attraverso le voragini. Poi c'è quel ritorno meraviglioso, stupendo, con la zattera, con i tre viaggiatori che galleggia sopra un'eruzione in un cammino vulcanico. Insomma, salgono in ascensore dal centro della Terra, arrivano su, escono sempre spinti fuori dall'eruzione, escono fuori, arance, limoni, mandarini, pescatori italiani, sono in Italia, sono a Stromboli. È un finale a sorpresa, assolutamente inatteso, le sorprese di Verne del resto sono molto note. Verne è stato un grande anticipatore, dico, dai viaggi sulla Luna, i sottomarini, queste cose qua. E come mai tu hai scelto invece proprio il romanzo che ancora non si è avverato, cioè il viaggio al centro della Terra? Perché? Sì, non ti so dire, però vorrei farti questa osservazione, che questa storia del Verne anticipatore non è mica del tutto vera. Verne non ha mica inventato il sottomarino è stato usato nella guerra americana 50 anni prima, nella guerra tra americani e inglesi. Ecco, voglio dire, d'accordo, quello no, però ha sviluppato molto, alcune anticipazioni però le ha date. No, ce ne sono di più nelle storie di Gordon. Lui era uno che stava attento a tutto quello che allora si scriveva di scientifico. La divulgazione scientifica non ha conosciuto un periodo più intenso, in Francia soprattutto, come quello. Editori, autori che sono diventati famosi, tra la Francia e la Germania. E lui questa divulgazione la assorbiva da poeta. E... Tra le tante sue avventure, lui ha mandato un pezzo di terra legata a una cometa. E tu invece hai mandato in cielo una torta, c'era un'allusione, volevi prendere in giro lui o gli UFO? No, figuriamoci, né Verne né gli UFO. Io avevo sentito dire da un mio collega che ha vissuto tanto tempo in America, una volta si parlava di qualche cosa, e lui per dire che erano castelli in aria, sogni, Chateau en Suède o così, disse a pie in the sky, cioè una torta in cielo. Come, dico io? Sì, una torta in cielo, una cosa impossibile. Ma io mi sono annotato questa frase, una torta in cielo, sulla bustina di Minerva. Allora fumavo ancora una delle 500.000 sigarette che ho fumato prima di smettere. Poi il giorno dopo sono capitato in una scuola, volevano una storia, e io ho raccontato l'inizio di questa storia di una torta in cielo. Quindi è uscita proprio dalla frase, la torta è uscita dalle parole. Proprio in quel momento un elicottero sorvolava i cieli del trullo, completando un largo giro intorno all'oggetto misterioso. L'oggetto aveva una superficie superiore di color bianco panna, con piccole sfere rosse inserite a centinaia, e sembrava formato da molti strati. Assomiglia proprio a una gigantesca torta, disse il pilota con aria stupefatta. Non dire sciocchezze, Dedalo, piuttosto cerca di capire a che altezza si trova il disco e di che materiale è fatto, gli fu risposto dal comando. Dedalo era il nome in codice del pilota dell'elicottero ricognitore. Diomede era il nome convenzionale del comando, situato nell'ufficio del direttore della scuola. Le misure messe in atto per fronteggiare l'emergenza erano state battezzate Operazione Icaro. Avendo inventato tre bellissimi nomi, le autorità potevano già dirsi a buon punto, eh? Nella stanza di Diomede si trovavano in quel momento alcuni personaggi, tra cui il generale Bottoni, due famosissimi scienziati di fama mondiale, il professor Pinco e il professor Panco, il vice sindaco, visto che il sindaco non si riusciva a trovare, e il vigile Meletti, padre di Paolo e Rita, a disposizione per missioni urgenti e strategiche del tipo ordinare un caffè forte per tutti e tenere alla larga i curiosi. Poche ore dopo, Paolo e Rita, dal balcone, osservavano quello che molti altri di nascosto nelle loro case stavano osservando. L'oggetto misterioso, col tempo, aveva perso quota e si stava posando dolcemente sul Monte Cucco, una collinetta pelata e sassosa che sorgeva alle spalle della scuola. Intorno al punto X, ossia alla collinetta, il generale Bottoni aveva intanto fatto schierare cannoni, carri armati, lanciafiamme, razzi terra-aria e un intero battaglione di soldati pronti ad intervenire. io dico sempre che per me il bambino non è una freccia che va in una unica direzione, la scienza, la curiosità delle cose, è un campo di frecce che vanno in tutte le direzioni, e c'è anche la freccia della fantasia, la freccia dell'immaginazione. Poi io non vedo opposizione tra immaginazione e spirito scientifico, anzi, trovo che non ci sarebbe spirito scientifico se non ci fosse immaginazione. Cade una mela sul naso di uno qualunque, beh, quello dice quattro accidenti e tutto è finito. Cade sul naso di uno che ha immaginazione, questo si domanda perché è cascata all'ingiù e non all'insù. E questo è Newton, e lavora e scopre le leggi di gravitazione universale, secondo il noto aneddoto della mela. Ci vuole immaginazione per raggiungere il dominio delle cose, cioè la scienza. Immaginare, quindi, immaginare mondi sconosciuti, scenari fantastici, mostri paurosi, grandi avventure. E allora entriamo in questo grande calendoscopio di emozioni con l'Atlante dei viaggi straordinari e degli inconsueti mezzi di trasporto per compierli, che è un libro, la terza puntata di questo Atlante, che vede Marco Paci come illustratore e Anselmo Roveda come autore. E per noi li ha raggiunti Simona Sagone. Sulla musica di uno dei tanti temi composti per rappresentare Cinematograficamente 20.000 leghe sotto i mari, accogliamo al telefono Anselmo Roveda, esploratore di terre inesplorate, viaggiatore, instancabile curatore anche di questo terzo Atlante straordinario che omaggia Jules Verne. Raccontaci tu come hai selezionato i brani invece dal libro, dai libri di Verne, e che messaggio nella bottiglia hai voluto lanciare a ragazzi e ragazze che prenderanno in mano il libro. Allora, la selezione è stata molto complessa ma anche molto divertente e appassionante. Ho scelto di offrire il più possibile uno sguardo ampio sui diversi ambienti raccontati da Verne, ma anche con un'attenzione, avrete notato, ai marchingegni, le macchine, i mezzi che Verne ha raccontato per compiere questi viaggi. E quindi non soltanto un'esplorazione di luoghi geografici o di destinazioni anche all'epoca impossibili e quindi fantasiose come il fondo del mare o lo spazio estremo, ma anche i mezzi per riuscire a raggiungerli, questi luoghi. E allora abbiamo proprio individuato i passaggi in cui questi mezzi si raccontavano. L'idea di raccontarlo alle ragazze e ragazzi di oggi, di condividere con loro questa lettura, è un po' nella continuità di questo progetto degli Atlanti letterari. È l'idea di offrire una sorta di carnet di biglietti di viaggio verso destinazioni che poi si possono percorrere per intero. È una sorta di, speriamo, di catalogo dell'immaginario che fa venire voglia, che possa far venire voglia alle ragazze e ragazze di continuare poi verso quelle destinazioni che più intrigano il loro invece di immaginario, e quindi incontrando appunto le differenti avventure, differenti luoghi, differenti marchingegni per compiere questi viaggi, poi l'idea, il sogno, l'aspirazione è che le ragazze e ragazzi possano magari scegliere uno, due, tre di questi romanzi che lì presentiamo nella suggestione di un brano e di un'immagine per poi compiere un loro viaggio di lettura. Ecco, torniamo proprio sul potere dei classici e ti chiedo, riusciranno appunto ragazze e ragazze, dopo aver letto l'Atlante, per orientarsi ad essere sedotti e travolti dai classici di Verne rispetto alla lingua proprio usata da Verne, con tutti gli scaffali delle librerie pieni comunque di novità che travolta di solito sono in un linguaggio molto semplificato, a volte proprio parla come mangi, che non richiede nessuna fatica proprio di niente. Come fa il classico a brillare ai loro occhi, che invece qualche piccola fatica, qualche piccolo sforzo richiede almeno? Allora, il classico, e questo vale non soltanto per Verne, ovviamente, ha in realtà proprio quel fascino, quella ricchezza di complessità e di anche di complessità, permettetemi, lessicale, cioè di numero di parole, di sfumature, di senso necessarie per entrare dentro il testo. E quindi è un bellissimo in realtà esercizio. Ovviamente sì. Un classico può essere goduto meglio da una forte lettrice, da un forte lettore, ma talvolta è proprio invece il classico con la sua, appunto, con la sua lingua così ricca ad affascinare la lettura anche chi non si è ancora innamorato della lettura, perché magari amiamo le buone storie si raccontano in tanti modi, si raccontano con la voce per radio, si raccontano con le immagini al cinema, si raccontano col movimento su un palcoscenico. Bene, la lettura è qualcosa di altro, di diverso, e quindi anche l'idea del linguaggio semplificato, che magari funziona molto bene e i ragazzi ne hanno consuetudine su altri strumenti, penso la narrazione breve che passa attraverso la rete, brevissima, sì, addirittura qualche volta, è qualcosa che conoscono già. Forse incontrare qualcosa invece che richiede quell'attenzione, quel piacere delle parole, come la pagina scritta, probabilmente è capace di, io ritengo che sia ancora capace di coinvolgere. Per me è stato così, e tutte le volte che anche in questi lavori di selezione e quindi di lettura e di rilettura, anche di incontro con opere mai lette, devo dire che qualche volta c'è proprio il piacere, no, di farsi coccolare da una lingua così complessa. Poi ovviamente i classici sono di tanti tipi, di tanti modi. Verne è sicuramente molto intrigante, sicuramente è, come tanti autori di quel tempo, ha delle parti oggettivamente molto molto descrittive, penso a tutte le descrizioni tecniche che forse un lettore di oggi può percepire un pochino più faticose, ma diciamo che l'avventura è talmente intensa che vale comunque il biglietto, il viaggio, insomma. Quindi c'è spazio anche per questo tipo di meraviglia, per l'avventura del pallone aerostatico. I loro occhi non luccicano solo per gli smartphone, no? No, anzi, secondo me se uno ha la fortuna attraverso la lettura di imbarcarsi sul Nautilus e affrontare insomma gli abissi o di andare intorno alla Luna sul proiettile, secondo me ne rimane assolutamente rapito e incollato. Ecco, ci sono alcuni 20.000 leghe sotto i mari, io penso che non possa che lasciare, appunto, con quel brillo negli occhi le ragazze e ragazze anche di oggi. Durante il proseguimento del viaggio, il Nautilus e la sua forza motrice eccitarono la mia più profonda curiosità. Dietro invito del mio anfitrione visitai la nave. Nemo sembrava deciso a mostrarmi tutto. Scendemmo fino nel cuore della nave, la camera di compressione. Era chiaro che il capitano Nemo aveva scoperto quello che il genere umano aveva sempre cercato, la vera forza dinamica dell'universo. Questo segreto bastava da solo a dargli la padronanza del mare. L'illustratore del libro, Marco Paci, in questo Atlante c'è uno straordinario lavoro di illustrazione. Cosa ha dichiarato ai nostri microfoni sul modo in cui ha proceduto a illustrare tutte le citazioni dai libri di Verne, dell'Atlante. Terzo Atlante straordinario, come hai lavorato graficamente e con le illustrazioni per rendere visibili le invenzioni letterarie di Jules Verne? Allora, intanto io mi sono occupato delle illustrazioni a colori e al tratto e fortunatamente ho avuto l'aiuto di un grafico che si è occupato, come negli altri Atlanti, di comporre insieme a me il testo con le immagini. A livello proprio delle immagini ho cercato di utilizzare diverse tecniche per restituire anche la varietà degli ambienti e dei mondi, diciamo, che andavamo a incontrare con i testi scelti da Anselmo. E che cosa c'è in questo terzo volume degli Atlanti straordinari? Cosa cambia per adattarsi al diverso autore, appunto Jules Verne? Beh, diciamo che sicuramente un allargamento dello sguardo, perché l'autore ha scritto di viaggi davvero straordinari, non solo nelle giungle, non solo su navi in mezzo agli oceani, ma anche nelle profondità più estreme del mare, col sottomarini, oppure addirittura proiettili lanciati nello spazio. Addirittura una delle illustrazioni che mi hanno sfidato di più, diciamo, è stata quella di un asteroide che di passaggio sul pianeta Terra portava via un pezzo di Mediterraneo con tutti i suoi abitanti sopra, e trovare il modo di rappresentare in un'unica immagine il momento, diciamo, saliente di questa descrizione è stato davvero una bella sfida. Ecco, cosa torna invece rispetto agli Atlanti precedenti? Qual è il filo conduttore? Ma sebbene qui l'interesse principale sia il filo conduttore dell'Atlante sia stato proprio quello dei mezzi con cui era possibile affrontare questi viaggi, appunto da quelli più ordinari a quelli più straordinari, compreso un elefante d'acciaio, diciamo che quello che torna con i precedenti Atlanti è un pochino la curiosità di scoprire cosa si nasconde, diciamo, nelle pieghe di questo pianeta Terra che oggi pensiamo di conoscere. Sicuramente conosciamo molto più dei nostri di Verne o dei suoi coetanei dell'Ottocento, a cavallo dell'Ottocento e del Novecento, ma comunque è un pianeta che, per quanto esplorato, mantiene il fascino di tantissime destinazioni che è ancora possibile scoprire o comunque guardare con occhi diversi. Quindi sicuramente quello che lo lega ai precedenti Atlanti è questo tipo di sguardo, l'invito a guardare il mondo che abbiamo intorno con questa meraviglia, questo stupore. Se fossi Giulio Verne con quel sottomarino che sembra un delizioso ottocentesco quartierino, starei da mattina a sera beato in fondo al mare, snobando barche a vela, motoscafi e grandi yacht. la la la la la la la la la la la. Se fossi Giulio Verne con quel sottomarino fornito di poltrone, biblioteca ed un camino, starei lì ad aspettare sirene da conquistare, suonando un sacco l'organo, vedendo un po' di gin. Da un gigantesco blocco vedrei senza tormenti ragazze di anni venti che si tuffano giù. Se fossi Giulio Verne, mettendomi al timone, speronerei la barca del mio capo divisione ed affonderei il veliero di qualche corsaro nero, portando poi sua figlia giù nell'Autilus con me. La la la la la la, la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la. Se fossi Giulio Verne con quel sottomarino, lontano dalle spiagge, dai rumori e dal bagnino, direi la più bella estate. Per questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti. Thank you.